Purtroppo sono tante le donne in Italia che si trovano a dover subire percosse, abusi, maltrattamenti, segregazione e sopraffazione. Ancora di più sono quelle che subiscono minacce e aggressioni verbali. Da alcuni sondaggi risulta che tra le regioni tristemente in testa a questa triste classifica sono la Lombardia, con più di 1 milione di donne che hanno subito almeno un maltrattamento in casa, poi l'Emilia-Romagna, il Lazio e la Liguria. Tutte regioni del nord, è vero. Ma si può pensare lecitamente che altre regioni del sud non siano tra le ultime, e se lo sono è questione di omertà. Ricordiamo che solo da pochi anni le donne hanno avuto il coraggio di uscire fuori allo scoperto nel denunciare soprusi e maltrattamenti. Cosa devi fare se tu sei una delle tante donne che subiscono violenza fisica o verbale meno da tuo marito, da un tuo familiare o dal tuo convivente? E, molto facile, per chi non si trova nei tuoi panni, proporti una soluzione, anche perché sembra una nostra comune inclinazione, quella di dare molto volentieri consigli gratuiti. Non che sia sbagliato, perché in genere chi offre consigli dimostra un certo vivo interesse, e questo fa piacere. Qualcuno si interessa di te. Ma poiché ho trascorso un mezzo secolo a parlare con delle persone, poiché mi sono trovato a dare dei consigli in più disparate situazioni, ho compreso che spesso essi non sono accettati, e inoltre, per quanto disposta a farlo, la persona non sa come tradurre nella pratica della sua esistenza il consiglio ricevuto. In genere la violenza tra le mura domestiche arriva ad essere talmente ingarbugliata, le circostanze si sono formate talmente lentamente e con una certa cooperazione, da far apparire proprio inesistente una via di uscita. Mi spiego. Se tuo marito ti picchia, se usa una certa violenza fisica o psicologica, non è certo da sempre che ha adottato questo atteggiamento. Quando eravate fidanzati, quando eravate ai primi approcci, non è che lui ti picchiasse appena ti vedeva, né usava una certa violenza nei tuoi confronti. Lo dubito molto. La donna, per come è fatta psicologicamente e emotivamente, è attratta meno, se non sedotta meno, dall'interesse di un uomo nei suoi confronti, dalle sue cure, dalle sue attenzioni. Questo è naturale e giusto, perché l'uomo deve conquistare e la donna sentirsi conquistata. Due atteggiamenti che si completano, oltre all'attrazione fisica. Poi è successo che i primi leggeri, insignificanti, innocenti sensi di aggressività, tu non hai dato il giusto peso, anche perché era talmente forte il senso di soddisfazione nell'essere cercata, apprezzata e anche valorizzata, che non hai correttamente valutato questi strani comportamenti. Ma poi, ecco, che queste aggressività, meno sempre verbali e leggermente corporali, meno aumentano, e in te inizia a sorgere qualche dubbio. Qualche dubbio. Niente di più. Intanto, nel dubbio, lui rincara la dose di maltrattamenti aiutato da una tua certa complicità passiva. E, mentre stai valutando seriamente la situazione, mentre stai per vedere chiaramente cosa sta succedendo, in genere è ormai troppo tardi. E tardi per il semplice motivo che se tu l'avessi capito prima, lui non sarebbe arrivato dove è arrivato. Così succede che se sei fidanzata, ormai sei talmente legata a lui dal lato emotivo e con dei compromessi irreversibili, oppure ormai hai detto il fatidico sì, che ti ha unito a lui in matrimonio, tanto da non sentirti più in grado di porre rimedio alla situazione. Vorresti tornare indietro, ma non puoi. Questa è la terribile realtà. Se poi ci sono di mezzo dei figli, la frittata è fatta. Ecco perché è un marito violento che ti picchia o ti tratta come non vorresti. La responsabilità è sua, certo, ma una certa cooperazione gli è sovvenuta anche da parte tua. Dico questo perché se tu vivessi in certe culture dove le donne sono obbligate per imposizione dei genitori a sposare un uomo non scelto da loro, allora non avresti niente da dire. La situazione ti sarebbe capitata tra capo e collo e non ti resterebbe che subire. Ma poiché stiamo Vivendo in un angolo del mondo dove la libertà personale è perfettamente rispettata, soprattutto nel campo dei sentimenti, tu hai, meno come tutti, meno la possibilità di scegliere l'uomo che ritieni opportuno. E, dato che sei una donna, è sufficiente che tu metta in azione il tuo invidiabile e prezioso intuito femminile. Anche se un uomo ti dice di amarti, anche se ti dice che sei la persona più importante su questa terra, anche se porge dei regali che ti lasciano a bocca aperta, anche se insiste nel dirti che sei la sua vita e senza di te è meglio morire, valuta ogni cosa alla luce della verità compensatrice. Valuta come ti tratta. Lo sai perché? Perché le parole verranno meno. Non ti dirà sempre, ogni giorno, che sei la sua vita. Ma i comportamenti rimangono. E se lui ti fa una piccola violenza, quando non fai ancora parte della sua esistenza, quando sarai entrata nel suo mondo, si sentirà libero di fare di te quello che lui crede bene. E, a volte, credimi, senza cattiveria, anche se questi restano sempre atti di cattiveria. Solo che, con il passare del tempo, per lui meno, non per te meno, diventa tutto tanto normale da renderlo incapace di distinguere ciò che è bene e ciò che è male. Ecco perché ogni situazione di violenza è ingarbugliata. Lui ha commesso i suoi errori, ma tu glielo hai permesso. Se quando conosci un ragazzo gli permetti di baciarti e poi di toccarti il seno, non puoi in seguito impedirgli di baciarti né dirgli che toccare il seno non va bene. Un uomo non accetta di regredire nel campo sessuale né nel comportamento. E questo la donna fa fatica ad accettarlo. Se lui ti ha picchiato una volta e tu non hai reagito drasticamente, è normale per lui, ripeto per lui, poterlo fare ancora. Com'è normale, se ha avuto con te dei rapporti sessuali, sposata o no, pretenderne ancora. Il tuo rifiuto, ai suoi occhi, è un insulto alla sua virilità, come un insulto meno se non addirittura un atto di insubordinazione, esserti lasciata maltrattare una volta e non permettergli più di farlo. Se ho potuto farlo prima, pensa lui, perché non posso farlo ancora? Ma è inutile recriminare sul passato. Ora è necessario risolvere i problemi attuali. È possibile, anche se ovviamente non così facile, perché più la situazione si è degenerata, più la soluzione è dolorosa, come una malattia. Una febbre presa sul nascere si cura con poco, ma se si trasforma in polmonite, più lunga sarà la cura e più pazienza ci vorrà per guarire. Così, se stai subendo una violenza tra le mura domestiche, la prima cosa da fare è accettarla. Già questa terapia è difficile in sé. Quindi ritengo doveroso spiegare cosa si intende per accettare una situazione. Prima di tutto, non si intende dover dire che il nero è bianco, cioè che una cosa ingiusta è giusta, né che poiché è così tale dovrà essere sempre. Accettare è il contrario di subire. Si subisce una situazione quando questa provoca in te rabbia, ira e sete di vendetta. Quella situazione non ti fa dormire tranquilla. Produce in te un turbinio di pensieri negativi, non ti lascia l'animo in pace. E questa reazione alla violenza a costituire il vero problema. Invece accettare una situazione negativa vuol dire soffrire per quello stato di cose, ma senza che queste producano alcun sentimento negativo, senza che ti inducano a cercare rivalsa, riuscendo invece a mantenere nel tuo cuore una pace che sopravanza la tua intelligenza, possedendo un forte desiderio di bene verso chi ti produce del male, tutti atteggiamenti che alla fine ti porteranno a stupirti di te stessa e non ne sarai per certo dispiaciuta. Mi direi che sono andato giù di testa, che questa volta l'ho detta grossa, e ti posso capire perché, dal punto di vista, nessuno può restare sereno di fronte a un'ingiustizia. Se poi questa ingiustizia è rivolta a te, a maggior ragione non potrai restare serena. Assurdo poi che si possa addirittura essere felici. Ma è possibile se ci sono alcuni presupposti, il primo dei quali è indubbiamente una totale e incondizionata fede in Cristo. A questo punto fai un balzo indietro, perché senti odore di religione, una cosa che del resto non piace neppure a me. Una fede in Cristo, come descrive il Vangelo, non è una forma religiosa subita con rasserenata ignoranza, ma è il riconoscere in Cristo colui che ha totale diritto sulla nostra vita, sia nel bene sia nel male. E ammettere Cristo con il cuore e con la mente, quale padrone di ogni circostanza della nostra esistenza. Per fare questo non occorre fare innumerevoli elemosine, proferire migliaia di preghiere ai santi e a Maria, né migliorare le qualità morali del nostro comportamento. È sufficiente una preghiera dove ci si umilia, riconoscendo la propria completa disfatta morale, accettando la giusta punizione della condanna eterna, e accogliere, con la stessa valenza, il sacrificio di Cristo, quale unico e sufficiente rimedio per ottenere la vita eterna e la riconciliazione con Dio. Una simile esperienza ti trasformerà in una persona nuova, con una mente e una volontà trasformate. Solo così, finalmente sarai in grado di risolvere la violenza che stai subendo. Una volta entrati nel punto di vista di Dio, le situazioni si vedono in un altro modo. Se è vero quello che dicevano i filosofi prima di Cristo, cioè che non sono le cose a turbarci, ma l'opinione che abbiamo di esse, allora è possibile subire una violenza e senza restarne turbati. Questo non vuol dire essere dei masochisti, cioè godere nel tormentare se stessi. Non significa non dover fare nulla per cambiare la situazione. Il riferimento è invece a come si prendono le cose, cioè alla disposizione dell'animo. Questo ha molto valore anche sulla nostra psiche, perché una sofferenza subita procura molto più dolore di una sofferenza accettata. L'insonnia di una mamma, perché suo figlio ammalato ha bisogno di cure, è diversa da una notte insonne causata da un mal di testa. Perciò, se tuo marito ti fa violenza con minacce verbali o fisiche, e tu in questa situazione vedi la sovranità di Dio sulla tua vita, ti preoccuperai più di rispondere con amore che del male che stai subendo. Ricordati che Dio era presente e vedeva ogni cosa anche quando avevi i primi approcci con quello che sarebbe diventato il tuo futuro sposo. Non eri sola, anche quando tuo marito iniziava a maltrattarti. Non è che ora si è dimenticato di te, solo che ora Dio vuole migliorare in te virtù cristiane, vuole, mediante l'esercizio di esse, essere glorificato. Se Dio togliesse totalmente la sofferenza dal mondo, come potrebbe manifestare la sua sovranità e la sua santità? Come potrebbe mostrare il suo amore? Sarebbe morto in croce Cristo se non ci fosse stata l'ingiustizia degli uomini? Come potresti mostrare a tuo marito quell'amore che devi nei confronti dei tuoi nemici e fare del bene a coloro che ti fanno del male se lui fosse migliore di te? Certo, tutti noi, io per primo, vorremmo non soffrire, vorremmo una vita esente il più possibile dal male, ma se Dio decide un certo tipo di vita per me, chi sono io da dovermi lamentare? Perché io non dovrei soffrire e il mio prossimo sì? Se l'ingiustizia la permette Dio, qualcuno deve pur soffrire, non ti sembra? E se Dio nei suoi piani eterni ha deciso che sia io fra quelli che devono soffrire in un certo modo, perché lamentarmi dei suoi piani eterni? Ecco allora che, sebbene debba soffrire ingiustamente, troverò nella sofferenza una ragione di vanto e di gloria. La sofferenza si trasforma per te in una ragione di vita, una ragione per aspettare pazientemente l'opera di Dio. Questo non vuol dire che tu non debba far nulla per migliorare la situazione. Anzi, appena puoi, cerca di risolvere la questione in modo lecito e legale. Ma, se nonostante tutto non ci è via di uscita, allora dirai con l'Apostolo Paolo che di sofferenze ne ha avute, la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato eccellente peso eterno di gloria. 2 Corinzi 4.17. Cosa si vuole di più? Non rimane che uno spirito di riconoscenza, mediante il quale sarai in grado di vedere ogni cosa diversamente. Dicembre 2010. Ellero,